giro, l'hanno chiamata la Ferrari e l'hanno preso. Meno male, meno male. Quest'anno non è andata tanto bene la situazione. Purtroppo sì, speriamo l'anno prossimo, dice, adesso c'è questo motore che dovrebbe essere molto ma molto meglio dell'altro. Adesso il pilota non conta più niente, cacchio. Prima il pilota contava ai tempi di Senna, Villeneuve e tutta quella gente lì. Adesso se tu c'hai una macchina, può essere un bidone. L'hai visto quello che ha vinto il Gran Premio? Che non arrivava neanche a qualificarsi, sempre 20°, 22°, ma ne butto una dosa, due tucchi e ha superato, è arrivato, vabbè, non era più forte di Hamilton degli altri, però ha fatto un bel risultato ed era sconosciuto fino a poco tempo fa. C'era Vettel che vinse a Duttu e andando con una macchina che non è competitiva e ci ha sceso i vasi, Alonso uguale. Adesso chi conta è solo la macchina, l'elettronica, l'aerodinamica e tutto il resto, perché le gomme sono tutte uguali, non c'è differenza di gomme. Prima invece, cacchio, contava anche il pilota, ma se ti prendi tu un pilota discreto gli dai la cosa, la Mercedes vince quello lì senza essere un fuoriclasse tipo Hamilton. E non è mica tanto così, no. Cioè, da un compagno di squadra all'altro c'è tanta differenza. Cosa significa? Significa che il pilota conta tanto. Se è quello che riesce a tirarla al massimo la macchina, c'è quello che è un pochettino più limitato, non riesce a sfruttarla al massimo. Qualcosa significa, Sì, ma tu guardati Bottas e Hamilton. Hamilton è di gran lunga più bravo come pilota, molto più esperto, eccetera, eccetera. Ma i tempi sono simili, qualche volta arriva primo Bottas, qualche volta Hamilton, alle qualifiche qualche volta primo coso, ma sono sempre loro due. Le Red Bull ogni tanto fanno qualche risultato quando la Mercedes magari ha fatto danno, ha sfasciato qualcosa, ma stiamo parlando di decimi. Prima quando era Senna o Schumacher, cacchio, di lì c'erano anche un secondo che davano agli altri quando c'avevano la macchina. E cioè che contava il pilota, allora non conta più nulla. Non parliamo poi degli anni 70 quando le macchine erano ancora sperimentali, non c'era l'aerodinamica di adesso, basta che uno abbia una regolazione, gli hanno fatto una regolazione di un millimetro, non di centimetri, diversa dall'alettone di davanti, in rettilineo ti prende 20 km o 10 km in più delle altre macchine. Dipende tutto dall'assetto, dalle regolazioni, è tutto contro la macchina, il pilota fino a un certo punto. Ormai è tutto elettronica, centraline, ti basi in una mappatura in base alle tue caratteristiche di guida e vedi, non c'è più il pilota, conta quasi niente, 10%. Sì, non è così, io li vedo le gare, non è esattamente così, no. C'è il pilota che è bravo, che spinge forte, fa veramente la differenza, ma ha fatto impressione quel Russell, mi ha fatto impressione l'altra volta. Secondo me chi sei bravo, se è una macchina più competitiva fa veramente la differenza. Sicuramente poi ci sono i piloti più bravi o meno bravi, però nel rally, se tu guardi il rally, se tu prendi a parte posizione Carlos Sainz, che era uno di quelli più bravi, Marco Allen, Toivonen, quei piloti di lì, anche quelli della circostanza camminano lo stesso anche con la 500, perché nel rally è tutto diverso, c'è più sensibilità di guida, ecco. Qua invece sei in pista, tutte le condizioni ottimali, tutti uguali ce li hanno quelle condizioni, perché hanno tutte le stesse gomme, l'asfalto è sempre uguale per tutti, può cambiarmi qualcosa in un cambio gomme, che magari uno è più fortunato, eccetera, però adesso ormai il pilota a quei livelli lì conta quasi niente. Certo, un Hamilton confrontato al più scaccino che arriva ultimo, naturalmente la differenza si vede, però se tu prendi a Vettel e gli dai la Ferrari, fa un tempo di particolare, gli dai la cosa e ti fa un secondo più veloce, perché Vettel è un grandissimo pilota, però non va la macchina, e vedi gente della Red Bull, che è una macchina che è un po' più performante della Ferrari, che non sono nessuno eppure fanno dei bei tempi. Tu la stessa macchina la bigida da Leclerc e ti spaventi, perché così, perché quello lì tira come un animale, non ne ha fatti nulla. Secondo me è così, con una Ferrari che non va, lui riesce a farla andare, riesce in qualche maniera, infatti i risultati, se li guardiamo, sono ben diversi da Vettel. Lui riesce in qualche maniera riesce a farla andare, la tira forte la macchina, altro che. Infatti se guardi la Red Bull c'è un motore Ferrari. Cosa dicendo? La Red Bull c'è motore Honda. No, gli avevano messo anche il motore Ferrari. La Sauber, ti stai confondendo? No, l'altro modello, non quello, già una D che non vira più di motore Ferrari. Tutto Honda adesso, Sono questi motori Honda quest'anno. Cioè, gare, l'Alfa Romeo va più forte della Ferrari, che è ridicolo, c'hanno l'Alfa Romeo c'ha motore Ferrari. Avete parlato in due, non ho capito. Li prendo io. Ho detto che l'Alfa Romeo che monta il motore Ferrari dovrebbe avere un budget inferiore alla Ferrari. Certe gare è andata meglio della Ferrari ufficiale. Ah sì, quello sì. E c'è quel Giovinazzi che a chi lo lasciamo, quello li tira forte, mi lo penso. Se gli dà una macchina buona sono convinto che la può volare, anche quello lì è un buon pilota, è la verità. Assolutamente, ma anche quello Sainz, che adesso non è che lo conosciamo molto bene, ma quello corre lo stesso, è forte. Sì, adesso bisogna vedere se con Leclerc, perché Leclerc se tu gli dai la macchina, l'ha dimostrato tante volte, la volta che va vinto a Monza, cazzo era un animale, era. Cioè, Hamilton non c'era storia con la macchina dell'anno del 2019, che c'era un motore allucinante. Non c'era storia, ma non c'era proprio storia a Monza. Cioè la tirava a casa come un animale, cioè proprio il pilota già conta molte volte. C'è quello che è più portato e quello meno portato. Sì, naturalmente, però non c'è questa differenza di anni fa. Adesso se tu c'hai una macchina veloce fai tempi buoni, anche se non sei un grandissimo pilota. Poi se sei un grandissimo pilota e c'è una macchina scadente non fai nulla, e l'ha dimostrato lo stesso Vettel. Signori, io adesso devo lasciare, devo fare cosa? Saluto a tutti, ciao Antonio, ciao Danilo, ciao Claudio e poi eventuali qua amici su 10. Dai, ci sentiamo magari se coincide stasera. Ciao ciao. Ciao Robè, ciao, ci aggiorniamo stasera, dai. Avanti a chi tocca. Ma ciao Robè, ce la risentiamo stasera quando è. Ciao ciao. Ok, ciao Robè, alla prossima. Così è. Ah, poco fa stavo scherzando, poco fa. Stavo dicendo l'antenna. Io faccio che ci arringo. Mi trovo benissimo, mi trovo. Per il momento va bene così. Va bene, va bene. Accontentati di quello che hai, ti ho detto. Stai andando benissimo. Poi più avanti si vedrà. La verità, dico. La verità. Sono contento così, da. Ok. Riprendi o Danilo, là. Sì, infatti ognuno si accontenta di quello che può. Tanto se vuoi accontentarti di quello che non puoi, esci solamente di te. Io mi sono accontentato di quello che ho e va bene così. Non posso andare oltre. Ognuno ha i suoi limiti. Dai, comunque, se ci siete stasera, provate nella radio, ci siete, ci facciamo un'altra chiacchierata, là. Così passiamo un paio d'ore al caldo, non vedo che si cura. Dai, ciao Claudio, ciao Antonio e ciao Luca, se è sempre in ascolto. Dai, ci sentiamo stasera, se c'è qualcuno. Ciao. Ciao, ciao. Dai, già ci sentiamo, dai, non ti preoccupare, noi la sera ci siamo, soprattutto io e Antonio. Ci siamo, ci siamo. Avanti, Antonio. Ma ciao Dani, ce la risentiamo. Ciao, sì, sì. Comunque qua, io sto sempre, di solito sto sempre qua sopra, perché giù c'è più freddo, qua c'è più caldo, qua c'è il cernaglio, adesso è tornato il sole, cavolo, si sta da Dio, si sta. No, non è tanto fredda la giornata, c'è uno spiraglio di sole, ma non è che dobbiamo cantare vittoria, Antonio. Capito? Non è che dobbiamo cantare vittoria. Va bene, va bene. No, vabbè, lo so, però il giorno che ha fatto più freddo, penso ieri. Cavolo, ero sempre qua, ero dentro il sofà, cioè dentro la stanza nostra, diciamo. Qua si stava benissimo, sono comparato io, sono messo con gancarato dallo freddo. Lo so, lo so. Aspetta che attacco l'altra radio a vedere se va bene. O se anche quella lì fischia. Oh, ma che vuole entrare avanti? Antonio, buongiorno, buona tarda a quanto. No, non mi ascolto, dai. Adesso vado via, sto iniziando a cucinare il maglietto e sono in semplice. Ciao Antonio, ciao Claudio, sono tu nel sfortunio e quello ti prenderà, ciao. Mari, buongiorno, sei tutto sparato, sega. Sto sparando cazzato la mattina presto, dai. Ok, di nuovo, ciao Antonio, sentiamo, ciao. Saluto a tutti, ciao. Ciao Mari, dai, ce la risentiamo. Ciao, ciao Mari, alle prossime. Spero tu che cambio radio a vedere. E vai. E avanti. Guarda Antonio, se va bene. A voglia che va bene, cra. Grazie, manco male. Aspetta, ma la radio buona, alta? Una bomba, Meglio dell'altra, Antonio? Sì, va benissimo, cra. Mi sembra più forte dell'altra, no? Sì, è un po' più forte, già è vero, già. Un vinello bianco, fresco fresco, al vero. Sì, vabbè. Avevo comprato per il compleanno la Spy Carasau, solo che era morbido, no? Allora cosa ho fatto? L'ho messo nel piatto, un po' di sale, un po' di olio, e l'ho messo nel fondo, ho combinato quello Dual Crips, ma un bombo è uscito. Buono, è quell'olio, quello di oliva, quello fatto da poco. Sono così. Bene, ma lui questa radio, meglio dell'altra. Ricette sovramodulati, avanti cra. No, oh, Luca, ho detto, se va bene questa radio, c'è meglio dell'altra. Sì, ti ascolto benissimo cra, sì, un attimo. Poi io dopo biglio e preparo tortellini con la panna. Oh, io c'ho la pasta al forno, va. Io l'ho fatta l'altra volta, la pasta al forno. Ehi, allora, no, io non l'avevo ancora fatta. Fatta stamattina, l'ha fatta mia figlia. A pranzo le diamo la sciuscia. Che pinta da è da falla? Beh, l'aria già sa cucinare abbastanza, già sa cucinare anche bene. Beh, il suo lavoro, ha fatto l'alberghiero, quindi già sa cucinare. E capa, pure noi già ce la capiamo bene. Cappa cappa. Allora lascio questo, tanto va bene. E che andava con una bomba, ma liscio sei. Allora, 5 watt. Voi a 5 watt. Ehi, no, non attacco niente a tua questi baracchini, dai. Li sto usando per vedere se vanno bene. No, non tocco più nulla, lascio tutto uscì e ci abbia il culo. Ehi, acca. Tanto si bacia fa qualche sicuzzente, così. Eh? Qualche 500 cosa, di macchina o che cosa? No, no, qualche 500 watt. Ehi Anto, a valvole non ce n'è più, non lo so se lo trovi a valvole, ma non ti conviene, ti sto dicendo. Guarda che, allora, se tu vai a comprare l'RM Italy, quello senza la ventola, per farti capire, senti a Gianni tu, ok, a Gianni doppio rub, ti fai dare le coordinate da lui, lo paghi, poco più di 150 euro, ok, fai sacrificio e c'hai un lineare da 300 watt MR Italy, il migliore in assoluto che c'è, capito? Questo è per l'esperienza che ho avuto io, che ho preso io, perché io non ne ho mai avuto di RM Italy, però da quando ho preso quell'amplificatore che fa da 0,30 al mio, però è superiore a quello che c'è Gianni, ok, costa molto di più, però quello che c'è Gianni è molto molto bello, molto molto bello, e va 300 watt. Allora conviene prendere quello. Te lo sto dicendo, tu senti a Gianni, capito? Senti a Gianni al telefono, dice già, mi interesserebbe sapere il funzionamento, come va, come non va, quanto l'hai pagato, eccetera. Il lineare che hai comprato tu dell'RM Italy. Senti cosa ti dice, fai sacrificio e ti prendi quello che è transistorizzato, tanto l'alimentatore ce l'hai, capito? Lo attacchi lì e tu sei a posto. Certo che c'è un alimentatore. Quello lì dovrebbe essere una schioppettata, dovrebbe essere. Allora, in sesta marcia, lo tieni in terza marcia, terza, quarta marcia, ti tira fuori sui 150 watt, 170 watt, capito? Senza forzare molto, e tu pensi penso che c'è in una botte di ferro. Aspetta che c'ha anche il coso, c'ha, per sentire le persone più piccole. Ho un amplificatore d'antenna incorporato, che puoi usare anche se non usi l'amplificatore, ok, però deve essere acceso l'amplificatore, non in corrente. E puoi usare anche il preamplificatore d'antenna che ti aumenta di 20 dB, che sono tanti. Gioia. Me lo stavo sentendo l'altro giorno, la mazza che non è varia, che so cosa. E la corolina schiappettata in quarta marcia, in quinta, in sesta, Io ho il B300P che c'ha il preamplificatore d'antenna, è uguale a quello, preciso identico, 300 watt. In sesta marcia ne va 200, intorno ai 230-240. Non pensare che li dia sempre 300 watt, perché non li dà, perlomeno il mio non li dà. Capito? In banda laterale li dà quasi tutti. Però è molto interessante perché c'ha il preamplificatore d'antenna. Poi lo usi con un baracchino, anziché usare 5 watt, ne vuoi usare 20, lo metti in prima marcia e lui già ti dà 20 watt. E non lo stai sfruttando e stai andando alla grande, capito? So, ho capito. Ma chi è quello grigio per caso, Ocla? Il mio è quello dorato, originale, io ho il B300P, col preamplificatore d'antenna, 6 marce, AMSSB, nuovo. Qualche volta lo attacco ai baracchini, non sempre, adesso è di nuovo dentro l'armadio, ogni tanto lo provo e va bene, nuovo e va benissimo. Ok, quello invece che c'è Gianni è nero. Nasce senza ventola, quindi non devi mettere nessuna ventola, perché chi ha progettato quel linealetto l'ha progettato con dissipatore un po' più largo per raffreddare bene, quindi non ha bisogno di ventola. Poi Gianni gliel'ha messa e sono problemi suoi, però quello nasce senza ventola. Invece il mio ha la ventola, perché è un pochino più grosso, però, capito? Quello lì è il 503, il mio è l'803. In varia, non so quanto aumenti con una roba del genere, ma se l'attacco qua sicuramente spinge di brutto. Guarda, Gianni aumenta di, in città aumenta di quasi 15, quindi però tieni conto, Gianni c'ha l'antenna superiore alla tua, la posizione eccetera, però tu ti dovresti difendere bene, io ti consiglio quello, poi vedi tu Anto. Allora, appena che avrò la possibilità, mi compare il giudizio, me lo faccio ordinare da qualcuno e mi piglio quello lì. Lo fai ordinare da Gianni, dai, soldi a Gianni e te lo fai ordinare, lui l'ha ordinato, è contentissimo, ma io lo conosco molto bene perché l'ho provato anche quel lineare, capito? E va bene Anto, va ottimamente bene. Certo che da qua spingo forte, non so quanto è, ma minimo da te vado a 9.30. Beh, in città tu non è che si vede molto la differenza, devi fare fuori, ma sicuramente se vai con 80 watt da 9.10 a 9.20 con il doppio, capito? Con 160 watt, 170, anche 200, sicuramente arriverai a 9.30. Ma non è quello il problema, tu devi capire che i lineari si usano non per essere più forte in città, capito? Ma si usano per quando uno non si sente bene fuori della città. In città vanno bene anche 4 watt, non ce n'è problema. Stare sempre col lineare attaccato può essere anche fastidioso per chi hai vicino di casa, capito? Che se si vuole fare un QSO in un altro canale non lo può fare anche pigliando i golpi, capito? Già lo so, meno male che non ho nessuno qua. L'unico che ho è Gianni Rubrofetta, il più vicino, ma di altri non ho quasi nessuno. Il problema è magari lì verso Latte Dolce, lì Voce Cudi Coipe, o verso il monte, perché c'è io qua, è natalino ciò, ma in genere parliamo tutti qua, parliamo, quindi non è un problema. Vabbè, io non ne uso perché so che è disturbo, non che ho vicino ma anche che ho lontano, capito? Perché me l'hanno già detto, quindi no, non mi interessa avere problemi con nessuno. Io anche con pochi watt esco bene e quindi uso la potenza minima. Se poi mi serve la potenza massima, allora posso aumentare, se no già va bene così, capito? K, beh certo, va bene così, sì. Io gioco sempre me. Sempre gruppo attaccato. C'ho quella maledizione, c'ho. Chiuda nero, va. Ecco. Beh, questo è un tuo problema. Ricordati sempre che la potenza non serve assolutamente a niente. A nulla. Quando uno esce liscio normale e ha una buona posizione, no, non c'è bisogno di potenza. Si fa vedere quando esce bene da liscio, no? Se attacchiamo siamo tutti furti. Il bello, tu immagini che io arrivo a Lizzano così come sono adesso, arrivo a Lizzano, tu capito? Io con 6 watt arrivo a Lizzano, quindi a cosa serve avere il lineare? Per andare dove? Per andare alla luna? Serve a niente. Io ce l'ho di vizio, ce l'ho. Ola, ola, 4 watt, mi. Com'è? No, non cambia niente, sei 9 più 10 e poco fare 9 più 20. Non serve a niente, capito? Far vedere 10 punti in più non serve a niente. Ti ripeto, ribadisco, io la penso così. Io ero come te da ragazzo, poi basta. Lineari ne ho 4, di amplificatori. Uno più bello dell'altro e uno più forte dell'altro, ma non serve a niente usarlo. Non serve a niente. Quando uno ti sente va bene così. Se poi dice ti sento basso, aspetta, attacca, allora puoi attaccare. Mantenerlo sempre attaccato per far vedere che cosa. Che sei il più forte nella bassa valle, non serve a niente. Non serve assolutamente a niente. Vabbè, ogni tanto gli diamo qualche cacallisciata appena per usarlo e mi capito. Penso che la radio sia anche migliore adesso, no? Certo che è migliore, te l'ho sempre detto, ti porta via la radio, non serve a nulla, tu, a me re, tienilo sempre pronto e basta, io non ne uso perché mi faccio due chiacchiere con i baracchini, mi ascoltano tutti, quando passo nell'altra scrivania, nell'altra base, che ho il 140 o il 430, se mi servono 10 watt uso 10 watt, se me ne servono 100 ne uso 100, tu, cosa cazzo me ne faccio lineare? Certo, certo, no, ma me la burro tendere un gabbo che sta a ventola e l'ho spenta e sto usando il baracchino normale, ma no, poi cazzo anche con il normale non ne ho problemi. Allora, cosa devi fare? Lascialo spento. Che tutta salute per i baracchini e per gli alimentatori e per tutto. Ripeto, ce l'hai lì, tienilo fermo, no? Pronto, quando parli con fuori, allora lo puoi attaccare. Ma in città non serve a niente. Cazzo siete tutti attaccati in Kiwi. Cosa ne fai? Va bene, Anto, dai, io mi sposto in cucina a dare una mano e al limite ci sentiamo dopo, ok? Allora, confermato, lascio con tutto così, sta andando bene. Alla grande vacca. Come va, eh? Abbiamo risolto il problema, dai. Ok, ci sentiamo dopo, Anto. Ciao, ci sentiamo dopo. Ciao, ciao, buon pranzo a tutti. Allora, vediamo se c'è qualcuno in ascolto. Yeah. ciao Luca. Sta facendo malissimo. Adesso va meglio. È troppo alto, si dice, il radio, abbassa. Addirittura. Così va. Guarda un po'. Ti porti tutto dietro, Marco, troppo alta. Aspetta, qui c'era anche altra radio accesa. Aspetta che abbassi. E così com'è lui? Adesso è perfetta. Addirittura. Cioè questo microfono, noi c'è la batteria nuova adesso. Lo tenevo fai conto da 1 a 10, adesso è a 3. A 3 è un timer. Va bene, ma com'è? Amplificata, bella, cattiva oppure fa cagare? No, va bene Marco, va bene, abbastanza presentabile, bella, va bene. Silenziosa, aspetta, guarda un po', adesso è cambiato qualcosa così? Sì, è aumentato, ma era meglio prima. Allora. La va nuda. Tutto a fischi. Niente, così va bene, se lo inserisco va male. Adesso va bene. Ma se cioè, con i microfoni è. Sicuramente c'è un po' di polvere dentro perché fa. Polvere. A circa 40 anni un pochino di polvere potrebbe averla, Cioè, aggiù mai grande in me. Va bene comunque, piace bene. Che microfono è, Marco? Il più 3, quello però, sai che l'hanno fatto in più versione, la versione nera, con scritto più 3 come numero proprio, perché poi l'hanno fatto invece versione sempre più 3, però con scritto per esteso, plus 3, capito? Invece questo è che ha il carattere positivo e il numero 3 e poi B, è la versione 3B, come quello che c'era in via Roma, all'angolo di Delugu. Non mi ricordo, comunque già esce bene, dai. E lui una battuta, era il bar famoso a Sassa, il 3B che c'era via Roma, va bene, ci ho messo la batteria nuova, è da un po' che non usavo neanche questa radio, che è sempre bella, perché quando va in trasmissione è già con gli strumenti, doppi strumenti, eccetera, eccetera. Quando poi va in trasmissione diventano rossi, cioè sono quelle cose che ti lasciano, ti scaldano il cuore. Sì. No, già esci bene, solo che quando fai l'altro passaggio esci tutto a fischi. Non so se aumenti o che cosa. Dove sei, a casa, sì? Sì, praticamente stavo utilizzando il Midland, il 747 come amplificatore. Che nelle altre radio non crea nessun problema, ma qua che ha forse questo microfono che amplifica parecchio, in mezzo bisognerebbe mettere poi per lì di provare un po' a fargli un po' di cose. Non me ne frega niente, era giusto così, fare due prove prima di scendere per Prato. Va bene, perciò è vecchia, ma funziona. Praticamente questa è una base della realistica, abbastanza insolito per noi della parte europea, proviene dagli Stati Uniti, e pensa che già allora, questo mi pare che sia dei primi degli anni 80, forse fine degli anni 70, fine degli anni 80, quando va in ricezione ha due strumenti, no? Sai tipo come quelli che conosci, tipo il lavoro, roba del genere. In ricezione sono bianchi, quando poi vai in trasmissione diventano rossi gli strumenti e ha l'indicatore del canale già con la prima tipologia di barrettine fluorescenti e rimane rossa e carino. Allora era un bel base, adesso è un vecchio bel base della tipologia. Sì, no, già esce abbastanza bene. Sì, anch'io mi ero di passaggio, che stavo facendo dal bagno, siccome vicino c'è la cameretta, e sentivo un po' di fracasso, ecco, e non capivo chi era, allora mi sono avvicinato, tanto dovevo entrare comunque sia a spegnerlo, perché io tra un po' mi riposo. Ohia! Qualcuno ha dolori, c'è, si è alzato a dolori. Ti riposi, ma stavi lavorando lui? No, no, no, assolutamente no, relax, no, non c'è niente da fare in questi giorni. Questi tre giorni sono il relax, poi quando ho la cosa da fare la faccio. E se no metto il relax. Non mi lo ascolti. Vabbè, qui siamo in galera. Ancora un po' più, non so, ci saranno una condizionale, vediamo un po' se voleva entrare chi ha fatto Uia. Buongiorno, buona domenica qua, Marco Scorpio e Luca. Appa, buonasera Marco, buonasera. Antonio Bombolo. Sì, Antonio, da lui non ti avevo riconosciuto. Sì, ciao, buongiorno, buona domenica, è ben sentito. Io qua mi provando un cicacuso a tu, uno dei soliti cicacusi miei. Va bene. Buon signore, dai. È già ora di andare a mettere le gambe sotto al tavolo. Buon divertimento e buona domenica. Magari ci sentiamo più tardi. Ciao ciao, ciao a tu, ciao, ciao Luca, Marco Scorpio, l'uomo del monte, QRT e andiamo a mangiare, dai, piacere. L'uomo del monte, quanto ti arrivo lì? Fa un passaggio, non ho visto, non stavo guardando il fiume. E capa, che non te l'ho mai chiesto, non te l'ho. Quanto ti arrivo lì al monte? E a tu, boh, questo strumento qua dice 9, però queste radio sono sempre un po' ognuna, con i trimmer girati a modo suo. E qua arrivi segnale 9, 9 proprio spaccato su questa radio, l'ho detto prima, è un vecchio buzzer della 27 degli anni, dei primi degli anni 80, produzione realistica, la casa madre, è un po' tipo... un po' più grande del 440, una cosa del genere. Buongiorno Marco. Che è? Buongiorno, avanti. Un piccolino. Non ho capito, chi? Un piccolino. Coccolino, è fratello di Vernel. Coccolino, è fratello di Vernel. Sì, non è possibile. Chi sei, avanti? Ma lo sono di Luca, che è tutto Marco, beh. Tonino Carosacchio da questa parte. Ciao Tony, con queste modulazioni va bene che da me che non l'accendo, non ti avevo riconosciuto. Ciao Tony, quella è la modulazione performante, mamma mia, quella inizia con la K iniziale. Ciao Tony, ben sentito. Va bene, dai signori, vi auguro buon pranzo a tutti e vado a vedere se allora c'è qualcosa oppure se ci sono per le scarpe da tennis per fare il giro del tavolo. Cappa, ciao Marco, la buona carica, vai. Io metto piccolino, come fa? No, coccolino, con Luca, con Bricicchetta. Diglielo che se l'amante di Falcone ti avrebbe riconosciuto subito. L'amante è sempre dopo di te, prima c'eri tu che lo portavi al passeggio. Gli si deve non avere una macchina, lui sì, male è andata. E da fedi, lo buttavo in macchina. No, non portarti in bicicletta. E manco lì stava vivo. Ciao Marco, saluto di buon pranzo. Ha fatto piacere, cioè mi ha fatto piacere averti ascoltato, alle prossime, vai avanti Antu, anch'io mi assento, dai Antu, riprendi tu che vedo un po' se parte la stufa. Pagappa, ciao Marco, ce la risentiamo alle prossimine, ciao ciao. Ciao ragazzi, fate la brava, non mangiate troppo, lasciate neanche agli altri. Tonì, sempre forte e chiaro, ciao, buon proseguimento, buona domenica ancora a chiunque in ascolto e buone feste. Ma già ci sentiamo in questi giorni, tanto siamo carcerati, l'unica cosa che possiamo fare è accendere la radio. Ciao, buon pranzo a tutti. Ok, grazie Marco, dai, qualche decimo in più posso arrivare anche tutto qua. Buon carica, ci sentiamo le prossime, ecco, più spesso. Avanti, ciao Luca, Bocorix, avanti a tu. Appagappa, ciao di nuovamente, dai. Luglia, un poco di gaggio maggio va, Grazie che sono spumantino che mi ha giubito imparare le tortelline. Fai da bravo. No, io ho già mangiato. Mi sono fatto un bel minestrone di verdure perché di pasta al forno ne ho le scatole piene. Sempre asciutto. Ma non è del travesso che è. Se è piaciuto ci vuole un po' di brodo, Il minestrone ne ho tanta voglia. Capa, no, noi ci siamo fatti i tortellini con la panna, con la pancetta. Ma buoni però, mi. Cioè, non vedi che mi faccio i tortellini che era serrato, che hai dimenticato la panna, mica l'hai pigliata. Ma, oggi ho fatto tutto. No, li ho comprati oggi, ho comprato i tortellini. Fratellini a panna. Anzo Rami, Ma chi lo cerchi? Mi sono andato qua al supermercato. A peso. E ce l'ho qua vicino, ce l'ho. In piazza Colonna Mariana. Ma quindi sono appetito. No, io non sono riuscito a mandare le mani oggi. Ui. Non è voglia. E lo lascia fare. Sì. Ce l'ho qua vicino, ce l'ho proprio. In piazza Colonna Mariana, lì, a voglia. Assaggi ubigliati, quelli di Marcami, quelli fini, col prosciutto crudo dentro. Una magnata, poche erano i buoni. Mi sono fatto un po' di minestrone, l'ho messo alle 10:30. Mezz'ora e mezzo l'ho spento, grazie a Dio. C'è tutto qualche patata, però parlo più messo, lì si è sciolta. Un piatto giusto, niente abbondante, proprio andare leggero. Un po' di liquido ce la volevo, ragazzi. Questi giorni ho mangiato troppa roba asciutta, troppo pasta al forno, e che cavolo, e basta. Ombra di ergosa, pure noi. Capovanno fermo lo zampone, fermo, e via. Che video che faccio, mamma mia. Ah, esita. Sacca ne burro la spina, ma con una brutta già rugabo. E senti lo stesso, sì. Cosa? Senti lo stesso. Poca potenza, 4 watt dell'apparecchio, va. Anche faccio sempre un video di attaccare un coso. Beh, dice che qua abbasso un pochettino. Watt, ecco. Adesso va bene. È allucinante, ti aumenta la radio di brutto. Quando? Quando sono abbasso? Eia, come mai? Perché così rumba. Mistica, se tu vai con questi watt e l'attacchi lo 747 esce una cosa che è impressionante. Perché si abbina, capito? E il microfono buono, capito? Sempre la perla nera del Turner. Sì, ma tu uscendo con quei pochi watt, se gli attacchi quello che ho io, il 747, esce una bomba, esce. Bisogna che si sposa bene, con Garax si sposa bene, va bene. Ma io l'ho già sentito, cioè con pochi watt del Galaxy. Con 747 attaccato sia una cosa che era impressionante, sia ce l'ha avuto una persona. Guarda che anche quello come sono adesso non scherza neanche. Sì, perché quel tipo di stavo dicendo, quel tipo di amplificatore avendo il finale a MOSFET si abbina molto bene, si abbina. Quando tu attacca una cosa del genere, è una cosa che non si crede. Esce un bel forte, cioè. L'ho già sentito da una persona. Aspetta che me lo prendiamo. E poi quelli che. Tipo quello che. Vai. Quello che ci ho costruito io della RM Italy. C'ha l'impianto, c'ha il coso, la scheda RM Italy. Ti puoi immaginare come ti esce con un apparecchio così. Mi tu hai. Ehi, mi sono tolto la bottiglia dell'acqua qua, faccio prima. Dopo una bella filichilla, intanto mi arrimani, sempre bucato. Per forza, pioveva, usciva il sole, pioveva, usciva il sole, pioveva, ma che si abbiglia a luce. Che tempo vero. Oggi è un po' meglio, Ma c'è anche il nuvolone nero intanto. Lo so. Sarà stato tutto bello, oggi era stato bello a fare a mare. Ehi, no. Che c'è freddino, comunque ha messo di nuovo freddo per lunedì prossimo, cioè domani. Sì, già lo so già. Ha messo così, addirittura in certe cose anche neve. Ecco, andrà bene. E così, non vedo l'ora che arriva domani, guarda, per carità. Domani ho fatto tante cose belle, poi dopo domani devo fare un'ora di lavoro e c'è una giornata intera pagata. Il 29 e il 31. Devi fare roba, no? E il giro costa. provincia, prima Valdita, dalle casseforti presa la posta, la porto al palazzo, provincia, vigore di Bottega. E poi riporto i falboni indietro, a Valdita. Un'ora, non è cinque, tutto fatto. Chiappa, fai bene. Tutte le cose. E questa è la terza volta che lo faccio e mi sono aggiornato in tira. Invece di non mettermi in busta paga, mettermi in manca ore, che me ne soffrisco i figli, perché mi conviene di più. Perché se ti metti in busta paga ti pago una cazzata allora. Mentre invece me ne metti in figli, ho due giornate che te le pagano al 100%. E adesso buon guro figlia. E bisogna fare quello che conviene, bisogna fare, anche se un po' che dronfi, sai niente. Perché sono passate, capito? Di grimane. Una volta, tempo fa, faccio un po' straordinari, e quando ho visto la titola com'era, sono già 23 anni qua, ho detto no, fai una cosa, da oggi tu me ne segni in banca ore. E me ne prendo in figlia. E così ho fatto, mi sono trovato sempre bene. Che qui c'è questo, più ore fai in busta paga, alla fine anno ti gremani perché hai superato quelle 8 ore mensili di capito. E quando superi un tot di ore, anziché di credito di tasse, e quindi invece hai un lì, no, perché sono in figlie, quindi tu non stai lavorando, ma si è pagato la giornata. Appa. Già lo so. Tanto alla fine che te lo fate in là, se lo fai in fine si abbiglia in culo, cosa, ma non ne vale manco la pena. E io già sono pagato mensile comunque, non sono pagato giornata, non si calcolo un mese intero, capito? Sono 172 euro, sono modellato, una cosa del genere. E così funziona. Voglio dai, io ti devo lasciare, ti faccio una pennichella, ragazzi, mi sono appena in mattinato, un visto un capo di fumantino, ragazzi. Devi bere poco, guarda a me, non mi vuole molto su prima. Va bene, dai, a tu, io già sono in camera da letto, mi guardo con il TV, mi faccio il calduccio, ok. Senza sera, poi niente, ci sentiamo. Ok, lo tengo con lo scorso inserito e acceso il baracchino. Ciao, stai bene e bevi poco. Yeah, ok, e non ti vedo un poco, grazie, ma un po' che è da fortunato. Quel poco che c'era, e ce lo buttavo. Meglio che me l'ha già vinto. Guarda, ma si vede la roba. Beh, non è giusto una partita, pagatemi. Lo so, vuol dire che il tuo sabato non l'ha retto, se ti alza poco a capo così non ti ha retto, capito? Non lo accettava, lo vorrei più tardi, mi ha detto di buttarlo. Sì, sono lentaccio. E ti fai un bel pisolino che ti fa bene, tanto pure col freddo. Eia, no, qua si sta bene, capo, in questo cernaio, infatti io giù, sto più qua che giù, perché qua si sta molto, molto, molto meglio. Capo. Ok, dai, ci sentiamo, alle prossime, ciao. Ma dai, mi faccio una pennichella, mi faccio. No, io guardo poi il TV, poi mi correggio. Ok. Tony, dai, ce la risentiamo. Va bene, ciao. Ciao.